Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La situazione in Austria sta tornando sotto controllo, noi abbiamo per fortuna degli stoccaggi molto ampi che hanno sopperito in queste ore, non ci saranno dunque problemi per i consumatori. Certo che quello che è accaduto fa capire con grande chiarezza che dobbiamo diversificare le fonti e prima di tutto realizzare rapidamente il TAP, che è un gasdotto che porta il gas dall'Azerbaigian, perché ne va della nostra sicurezza degli approvvigionamenti. Così ha parlato, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il ministro dello sviluppo Calenda a proposito dell'esplosione oggi in Austria di un impianto di gas che conduce il gas dalla Russia verso l'Europa e quindi anche verso l'Italia. C'è stata un po' una situazione di emergenza nella giornata, però Calenda intanto ha assicurato che nella notte questa rotta verrà di nuovo ripristinata per portare il gas e quindi lo stato di emergenza che era stato dichiarato oggi non ci sarà, rientra e poi ha anche sottolineato che quindi è necessaria la costruzione di questo TAP, di questo gasdotto in Puglia. Però nello stesso tempo, poco dopo in realtà, il presidente della regione Puglia, dove è lì che si dovrebbe costruire questo TAP così controverso, ha detto no, in realtà questo dimostra che è una questione di sicurezza e che le stesse cose potrebbero succedere anche in Puglia. Quindi si apre una nuova battaglia su questo tema, ne parleremo, ci occuperemo di questo, come ci occuperemo del vertice sul clima a Parigi, chissà se anche questa volta se ne uscirà con nulla di fatto. E poi c'è la politica, tanti temi, parleremo ovviamente anche del maltempo e capiremo anche nelle prossime ore che cosa ci si deve aspettare. Per i vostri commenti, ormai lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è sempre quello, 349-238-6666. A questo punto, quindi, prima di approfondire tutti questi temi e di chiarirli con gli ospiti, io vi racconto la giornata in sintesi. L'esplosione di un impianto di gas in Austria ha dichiarato lo stato di emergenza per le forniture, ma in serata appunto il ministro Calenda rassicura questa notte si aprirà, riaprirà la rotta. Il vertice sul clima a Parigi, il presidente francese Macron avverte rischiamo di perdere la battaglia, non si può sbagliare. L'inchiesta sui politici spiati sono 3 milioni e mezzo, le mail carpite e 6.000 le persone spiate. La direzione di Alternativa Popolare ha raggiunto l'accordo per una divisione consensuale. E poi maltempo, salgono a oltre 2.000 gli sfollati nelle province emiliane allagate, allerta per il secchia nel modenese. Stati Uniti, più di 50 deputate chiedono un'inchiesta al Congresso americano sulle presunte molestie sessuali da parte di Trump. La svolta di Facebook cede alle pressioni internazionali e rivoluziona la contabilità. Partiamo quindi da questa esplosione di un impianto di gas in Austria, uno dei principali snodi di distribuzione verso l'Europa, almeno un morto purtroppo c'è stato e diversi feriti, interrotto il flusso di gas dalla Russia verso l'Italia, per questo il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, garantendo però le forniture oggi, e poi avete sentito invece poco fa il ministro Calenda che ha detto che nella notte questa rotta verso l'Europa verrà ripristinata e ha detto anche se avessimo il TAP, il gasdotto dall'Azerbaigian all'Italia che serve a diversificare queste forniture di gas, ciò non sarebbe necessario, cioè quindi dichiarare lo stato di emergenza oppure cercare nel più breve tempo possibile di ripristinare il passaggio, mentre come vi dicevo il presidente della regione Puglia Emiliano ha commentato la circostanza dimostra che l'impianto in costruzione a Melendugno in Puglia appunto ha profili di pericolosità simili all'impianto austriaco e non si tratta affatto di un semplice tubo che passa sotto una spiaggia e quindi nel corso di Effetto Notte ne parleremo. E poi il vertice sul clima a Parigi, per salvare il clima ogni attore della società deve impegnarsi ogni giorno, ha detto il presidente francese Macron aprendo il vertice One Planet Summit a Parigi. Oggi si gioca una nuova tappa della nostra lotta collettiva, ha continuato spiegando tuttavia che non dobbiamo sbagliarci ma stiamo perdendo la battaglia perché con l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo siglato nel 2015 alla COP21 di Parigi questa battaglia diventa più fragile, annunciando anche inoltre che il vertice parigino ha stanziato centinaia di milioni di dollari per 12 progetti in tutto il mondo per contrastare il cambiamento climatico e poi ne parleremo. E c'è l'emergenza maltempo a proposito di clima che nelle ultime ore ha colpito l'Emilia fra le province di Modena, Reggio Emilia e Parma. In queste ore la preoccupazione principale è nel modenese lungo il fiume Secchia, mentre nel reggiano ci si prepara la notte nei centri di accoglienza degli sfollati di Brescello. Strade come fiumi in piena e persone salvate con elicotteri e gommoni. Preannunciato dal rombo della sua voce, il fiume Enza rompe gli argini e inonda le frazioni di Brescello, il comune di Peppone e Don Camillo. A Lentigione, case, aziende e imprese, a cominciare da Immergas, vengono inghiottite come in un unico lago e per ore solo dal cielo si riescono a salvare le famiglie intrappolate. In una corsa contro il buio si allestiscono centri di accoglienza per gli oltre 2.000 sfollati di un'alluvione che, ammette uno dei commissari, Giacomo Di Matteo, non era attesa. Quest'argine di 72 è l'ultima volta aveva stato abbattuto dal fiume. La valutazione sulla tenuta dell'argine era stata fatta, nulla lasciava prevedere che potesse accadere. Quando cala l'allerta nel Reggiano e nel Parmense, dove l'acqua fa danni alla Reggia di Colorno, nel Modenese è il Secchia a fare paura mano a mano che la piena avanza. 100 animali muoiono annegati a Campo Galliano, famiglie vengono evacuate tra Soliera, Carpi e Bonporto, strade e ponti in parte chiusi. Nel Piacentino sono 12.000 le persone senza elettricità e 6 in Emilia la situazione più critica. Dopo le nevicate restano disagi soprattutto per i trasporti anche in Liguria, Toscana e Piemonte, compreso lo scalo di Caselle. E il Codacons annuncia esposti per i disagi ai treni. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per i prossimi giorni gli esperti meteo prevedono che Toscana, Lazio e Umbria saranno le regioni maggiormente colpite dalle piogge. Poi però ritorneremo a parlare di maltempo col capo della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna. E c'è anche questo nuovo filone dell'inchiesta sui politici spiati. Oltre 3 milioni e mezzo di mail intercettate e 6.000 persone spiate dal 2004. Questi sono i numeri della nuova inchiesta a carico dei fratelli Giulio e Francesca Maria Occhionero, già processo con l'accusa di aver avviato l'attività di cyberspionaggio su larga scala, ai quali adesso la Procura di Roma contesta anche l'accusa di spionaggio politico. Questo è altro tema che sarà nella puntata di questa sera di Effetto Notte. E si torna a parlare dell'inchiesta Consip, interdizione per Scafarto e Sessa e nuove accuse di depistaggio. Se qualcuno ha tradito il giuramento allo Stato è giusto che paghi. È evidente che questa storia non finisce qui e io la seguo con atteggiamento neutrale. Parole del segretario del PD Matteo Renzi a proposito degli ultimi sviluppi della vicenda Consip, ovvero la sospensione per un anno degli ufficiali dei carabinieri Giampaolo Scafarto e Alessandro Sessa. La nuova accusa di depistaggio a loro carico si riferisce all'eliminazione delle comunicazioni intercorse tra i due al fine di sviare, secondo l'accusa, le indagini della procura sulla fuga di notizie. Per il GIP, il comportamento dei due fu deliberatamente volto alla distruzione di prove ottenuta tramite la ripulitura dello smartphone di Sessa per cancellare messaggi WhatsApp ad opera di Scafarto. La novità emersa nelle ultime ore segue la verifica di alcuni falsi commessi da Scafarto nella famosa informativa indirizzata alle procure di Napoli e Roma, in cui veniva chiamato in causa, tra gli altri, anche Tiziano Renzi. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In tema di banche invece di crisi bancarie, questa mattina in commissione parlamentare d'inchiesta è stato ascoltato il responsabile della vigilanza di Banca Italia, Barbagallo. In uno schema non nuovo per queste audizioni, Banca d'Italia torna a difendersi davanti ai deputati e senatori della commissione parlamentare che sta indagando sui dissesti bancari. E lo fa, come sempre avvenuto in queste settimane, per bocca del capo della vigilanza, Carmelo Barbagallo. Siamo stati incalzanti, dice, con Etruria, Carichieti, Cariferrara e Banca Marche, ma non tutto dipende dai controllori. Le autorità di vigilanza non possono sostituirsi ai soggetti vigilati, che non va dimenticato sono imprese, per evitare che la situazione degeneri. La vigilanza, spiega sostanzialmente, può dare indicazioni, ma queste non è detto che vengano seguite dai vigilati. I rafforzamenti patrimoniali non si sono talvolta nemmeno realizzati. I ricambi degli esponenti di vertice non ne hanno migliorato i comportamenti. La pervicace difesa dell'autonomia ha scoraggiato la ricerca di potenziali acquirenti. Per quanto riguarda infine le pressioni per una fusione tra Etruria e Vicenza, dice che non ce ne furono mai. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati sul Rosatellum. Sapete che c'erano stati dei ricorsi contro il Rosatellum, tra poco poi proviamo a capirne qualcosa di più. Intanto, nel corso della direzione del partito, oggi Alternativa Popolare, ha raggiunto l'accordo all'unanimità per una divisione consensuale. In parte ne avevamo già parlato ieri, poi torneremo a farne qualche accenno. Di nuovo all'estero, Stati Uniti, non era sotto il controllo dell'FBI il giovane di origini bengalesi incriminato per l'attentato di ieri alla stazione degli autobus di Manhattan, in cui sono rimaste ferite 4 persone, fra cui l'attentatore. Dalle indagini emerge che Akayed Ullah guardava su internet siti di propaganda dell'ISIS e poi aveva postato su Facebook questa scritta: Trump ha fallito nel proteggere il tuo paese. E poi ci sono ancora accuse a proposito di Trump nei suoi confronti di molestie sessuali da parte di esponenti dei democratici che chiedono un'inchiesta parlamentare. Lui risponde a modo suo. Oltre 50 donne democratiche al Congresso degli Stati Uniti hanno chiesto che venga aperta un'inchiesta sulle accuse di molestie sessuali riguardanti il presidente Donald Trump. Sono almeno 17 le donne che hanno pubblicamente accusato il presidente di comportamento improprio. Si legge in una lettera inviata da 54 deputate e 2 deputati: non possiamo ignorarle. Già nei giorni scorsi i 4 senatori, 3 democratici e un indipendente, avevano dichiarato che il 45esimo presidente americano si dovrebbe dimettere. Trump risponde via Twitter: nonostante migliaia di ore sprecate e molti milioni di dollari spesi, i democratici non sono stati capaci di dimostrare alcuna collusione con la Russia, quindi adesso passano alle false accuse e alle storie inventate di donne che io non conosco e non ho mai incontrato. E conclude a lettere maiuscole: fake news. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia, con l'anniversario di Piazza Fontana, Milano ha ricordato le vittime della strage di Piazza Fontana nel giorno del 48esimo anniversario, è stato il 12 dicembre 1969, con il tradizionale corteo, la posa delle corone organizzata dall'Associazione dei Familiari delle Vittime e dal Comitato Permanente Antifascista contro il Terrorismo per la Difesa dell'Ordine Pubblico, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Saha. E parliamo adesso della svolta di Facebook. Il social network ha deciso di rivoluzionare la contabilità e ha annunciato che dal prossimo anno i ricavi pubblicitari verranno contabilizzati a livello locale. La novità riguarda anche l'Italia e la conseguenza principale è che le tasse verranno pagate localmente. Rivoluzione contabile per Facebook. Il social network ha annunciato con un post sulla sua pagina ufficiale che adotterà un nuovo modello organizzativo, passando a una struttura di vendita locale nei paesi dove è presente con un ufficio. In altre parole, prosegue l'azienda, i ricavi pubblicitari realizzati mediante il supporto dei team locali non saranno più contabilizzati nella sede internazionale di Dublino, ma dalle società presenti in un determinato paese. Facebook conta di avviare il cambiamento nel corso del 2018, con l'obiettivo di completare il processo non oltre il 2019. La multinazionale ha parlato della novità come di un grande impegno, ma al momento non è chiaro se il cambio di rotta si tradurrà in più entrate per gli erari nazionali. Interpellata dal Sole 24 Ore, Facebook non ha voluto fornire commenti. Per ora, Alberto Magnani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo della parola dell'anno, secondo un famoso dizionario, sulla scia del movimento Me Too, delle donne che hanno appunto denunciato molestie, a cui il Time, la rivista americana, ha dedicato la copertina come persona dell'anno, in omaggio alle donne appunto che hanno avuto il coraggio di rompere il silenzio sull'epidemia di molestie sessuali. Il dizionario Merriam-Webster ha scelto femminismo, la parola femminismo, come parola dell'anno. Nel 2017 le ricerche su questa voce, nel più celebre vocabolario della lingua inglese negli Stati Uniti, sono aumentate del 70% dopo particolari eventi, ad esempio la marcia delle donne organizzata a Washington e in altre città americane il giorno dopo l'insediamento di Donald Trump, e appunto quello che è successo con questo movimento che si è così allargato, Me Too. Per chiudere chiediamo al nostro Dario Ricci, niente della partita, volevo capire appunto la partita Inter-Pordenone, vediamo se ci sono degli aggiornamenti. Al momento c'è un problema di linea, per il momento dunque per la Coppa Italia Inter-Pordenone 0-0, questo il risultato in questo momento. Ci fermiamo, così aggiorniamo chi si sta muovendo per strade e autostrade, e poi cominciamo con i vari temi, con gli ospiti, i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Ci sono già dei vari commenti sulla questione del gasdotto, dice un ascoltatore, vediamo se riesco a aprire questo WhatsApp. Giuseppe da Ravenna dice: cara Roberta, ancora una volta Michele Emiliano dimostra l'ignoranza in materia di metanodotti. Non si conoscono i motivi dell'incidente in Austria, ma vorrei ricordare che i metanodotti, i materiali e saldature sono controllati al 100%, il TAP sarà controllato nello stesso modo. Però appunto c'è stato questo incidente in Austria, vediamo se si capisce qualcosa di più di come è avvenuto. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchi di notizie, di fatti importanti. Vi racconto sempre tutti i giorni dalle 21 alle 22 le notizie in primo piano e poi le approfondiamo, anche le chiariamo con gli ospiti. Ricordatevi che Fettonotte è ascoltato in tutto il mondo, scrivono dagli Stati Uniti, dalla Germania, dall'Africa, anche vari italiani che magari lavorano lì. Quindi voi che siete in Italia, mi raccomando, non perdete questo appuntamento, che state comodamente nel nostro paese. Comodamente, qualcuno lavora, qualcuno fa altro, ma insomma adesso vi ricordo tra pochissimo i fatti principali e poi cominciamo con il primo ospite. L'esplosione di un impianto di gas in Austria ha dichiarato lo stato d'emergenza per le forniture, ma in serata il ministro Calenda rassicura questa notte si riaprirà la rotta. Il vertice sul clima a Parigi, il presidente francese Macron avverte: rischiamo di perdere la battaglia, non si può sbagliare. L'inchiesta sui politici spiati, ne parleremo tra pochissimo. E poi la direzione di Alternativa Popolare, è stata votata all'unanimità la divisione consensuale. Ma al tempo, salgono oltre 2.000 gli sfollati nelle province emiliane allagate, allerta per il secchia nel modenese. Stati Uniti, più di 50 deputate chiedono un'inchiesta al congresso americano sulle presunte molestie sessuali di Trump. E poi avete sentito della svolta di Facebook, che ha deciso di cedere alle pressioni internazionali e rivoluzionare la contabilità. Parliamo quindi di politici, ma in realtà diciamo dell'inchiesta dei politici sui politici spiati, una nuova inchiesta a carico dei fratelli Giulio e Francesca Maria Occhionero, se vi ricordate ne avevamo parlato tempo fa, perché sono dei fratelli già a processo con l'accusa di aver avviato un'attività di cyberspionaggio su larga scala. E adesso la Procura di Roma contesta anche l'accusa di spionaggio politico, cioè secondo i numeri di questa inchiesta sarebbero state carpite oltre 3 milioni e mezzo di mail e spiate 6.000 persone, questo dal 2004. Quindi diciamo, e saluto subito la nostra Betta Fiorito, ciao Elisabetta. Buonasera Roberta, buonasera radioascoltatori. Questa presunta attività di spionaggio sembra quindi avere delle dimensioni decisamente più imponenti di quanto sembrasse all'inizio, e la cosa importante è che c'è anche la collaborazione dell'FBI in tutto questo. Allora, tutto questo è molto importante, nel senso che la Polizia Postale ha fatto questa collaborazione con l'FBI, che ha sbloccato poi quello che erano i files americani degli Occhionero. Però i server, capito? E loro lì hanno capito che ci sono queste mail che riguardano i politici. Ora, poi io sentivo un po' i titoli questa sera, dicevo, pensate, gli Occhionero magari che cosa avrebbero spiato sulla separazione di Area Popolare, no? questa separazione consensuale, facile ironia. mail sulla separazione consensuale di Area Popolare è importante. Allora, il problema però è che tutto questo non si capisce a che cosa serviva. Ecco, questo è importante capire. Effettivamente, cioè, qual era l'obiettivo? Nella prima tranche dell'inchiesta su questi fatidici fratelli Occhionero, lei bellissima, un po', no, anni 80, con questi capelli mesciati, lui con gli occhialini. Occhionero, poi un nome e un programma, bisogna dire. Un nome e un programma, eccetera. Che cosa facevano? Perché il problema è che secondo me i magistrati adesso dovrebbero cominciare a indagare su quelli che sono i fondi, cioè c'erano dei passaggi di soldi cioè in questo verso di loro, mail. Qualcuno che magari era, diciamo, che li commissionava. Non si capisce se questi due fratelli carpissero i dati per informazioni sugli appalti, investire in borsa, dati sensibili. Cioè, allora, se ci sono coinvolti i politici, questi Occhionero, come dici te, un nome e un programma, a chi dicevano che Area Popolare avrebbe avuto un divorzio, anzi una separazione consensuale tra chi voleva andare nel centrodestra e chi voleva andare nel centrosinistra? Ecco, questo è il problema. Se non si risolve, e lì bisogna un po' fare, come dicono gli americani, follow the money, no? Perché segui i soldi. Se non ci sta il fatto che tu segui i soldi, allora può darsi che siano due pazzi. Ma senti, ti devo dire, Betta, che il deputato PD Davide Mattiello ha detto la nuova mafia ha già questa forma, per lui è nuova mafia, dice, per questo è così importante il processo Occhio Nero. Le nostre vite, sempre più smaterializzate e ridotte in bit, accumulate in banche dati gestite da soggetti privati fuori da una qualunque regolamentazione pubblica, sono già, dice Mattiello, la preda preferita di un nuovo modo di realizzare quella forza di intimidazione, quindi mafiosa, capace di generare omertà e assoggettamento, che è il cuore del metodo mafioso. No, allora, sicuramente in tutto questo concetto molto molto ad alto livello c'è poi la battaglia che il PD sta facendo contro il Movimento 5 Stelle e contro le fake news, no? Il problema è un altro. Se c'è quello che dice il deputato, per carità di Dio, il metodo mafioso, da qualche parte sono spunta i soldi. Questi soldi ancora non si vedono. Ecco, secondo me manca questa grande fetta di questa inchiesta. Cioè, a me, come cittadina, pensare che uno spii Salvini con la Isoardi o Di Maio con la sua fidanzata è sicuramente uno scempio, perché c'è la privacy. Però dici, bah. Altra cosa, se io spio Pinco a chi giova? Io non dico Pinco Pallo DL partito perché poi voglio quell'appalto e quindi voglio entrare in quell'appalto. Sì, mancano delle tessere, dici, di questo puzzle, cioè, insomma, dove Pinco Pallo è importante per farmi avere l'appalto, perché io poi gli pagherò una tangente. Quindi aspettiamo la prossima puntata a questo punto, Elisabetta. E soprattutto io voglio assolutamente sapere in queste merde di Occhio Nero Alternativa Popolare, anche, lo so che non so perché, speriamo per la nostra per la tenuta della nostra democrazia, e speriamo, e anche per dormire notti tranquille, speriamo che tu sia soddisfatta da questo punto di vista. Grazie Elisabetta Fiorito, a presto. Grazie. Ciao Elisabetta. Grazie. Parliamo ancora di politica italiana, ma non di spionaggio, se non intendiamo magari lo spionaggio come da parte nostra il cercare di capire come procede l'attività di chi ci rappresenta, di chi ci governa. E lo facciamo con la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara. Buonasera. Innanzitutto partirei dai ricorsi contro la nuova legge elettorale Rosatellum, che però sono stati respinti dalla Corte Costituzionale. Ora direi di non soffermarci più di tanto sugli aspetti tecnici, non vorrei un colpo di sonno da parte degli ascoltatori, ma vuoi proprio sintetizzarci molto molto brevemente in cosa è consistito tutto ciò? Beh, l'ha dichiarata inammissibile la Corte, ritenendo da una parte che coloro che l'avevano presentati sollevando un conflitto di attribuzioni. La Corte in realtà è stata abbastanza netta nel dire che questi ricorsi erano un po' troppo leggeri proprio nei contenuti, cioè, e sì, appunto, poco circostanziati, quindi. Ma sì, perché sia sul fatto che i proponenti fossero soggetti idonei a presentare un conflitto di attribuzione, sia sul fatto che si fosse ricorso al voto di fiducia sul Rosatellum, questo poteva, come dire, ledere un principio costituzionale. Anche su questo, tra l'altro, su questo la Corte si era già espressa in passato, ha ritenuto che il ricorso non fosse sufficientemente sostenuto per andare avanti, e quindi l'ha dichiarati inammissibili. Beh, questo è estremamente diciamo, io non credo che i ricorsi sul Rosatellum siano finiti. C'è un quarto, forse, mi pare. Questi sono tre. Sì, ma poi già l'avvocato Besassi ha già detto che appunto ne arriveranno altri. Quindi, insomma, sulle leggi elettorali in Italia abbiamo visto che ormai un ruolo determinante lo ha avuto la Corte Costituzionale. Non a caso per mesi abbiamo parlato di questo consultellum, cioè di un sistema elettorale che derivava da due sentenze della Corte Costituzionale. Barbara, passerei allora alle audizioni sulle banche della Commissione parlamentare d'inchiesta a proposito delle crisi bancarie. Oggi è stato sentito Carmelo Barbagallo, che è il capo della vigilanza di Banca Italia, e ha detto che l'azione della vigilanza è stata incalzante sulla crisi delle banche, Banca Etruria, Banca Marche, Cari Ferrara, Cari Chieti. Ha detto che le autorità di vigilanza non possono però sostituirsi ai soggetti vigilanti per evitare che la situazione degeneri. Sì. Ti sembra una buona giustificazione questa? Ma qui mi sembra che ciascuno cerchi di passare il cerino nelle mani di qualcun altro, mi sembra proprio il classico. Capisco che, come dire, l'argomento è importante però... e soprattutto per i risvolti e i danni che hanno subito i risparmiatori. Però appunto, ripeto, mi sembra che sia un po' un passaggio del cerino a qualcun altro per dire noi abbiamo fatto anche quello che dovevamo fare e quindi la colpa non è nostra, però insomma sì, anche facendo ricorso a delle date, da qui a qui noi abbiamo fatto questo, presentato atti, è inevitabile, diciamo, la commissione d'inchiesta è una sorta di tribunale, è inevitabile che chi a questo tribunale viene chiamato a deporre si deve difendere e quindi porta delle carte e degli atti che per sostenere la propria tesi. Dopodiché il dato è evidente, secondo me, ed oggettivo. Su queste banche la vigilanza non c'è stata, perché qualcuno comunque non ha vigilato a sufficienza. Come doveva. Perché se ci fosse stata... Non sarebbe andata così. Barbara, no. A questo proposito però ti voglio far sentire Luigi Di Maio, candidato premier dei 5 Stelle, che cosa dice, poi lo commentiamo. La prima cosa da fare è cambiare gli organi di vigilanza che dovevano vigilare su quelle truffe e non lo hanno fatto. E di certo non aiuta che quello che era a capo di Banca Italia e doveva vigilare sulle truffe delle banche è stato anche rinnovato da questo governo per un secondo mandato, che è visto. Allora noi proponiamo una cosa, che il governatore di Banca Italia non sia più nominato dal governo, ma deve essere nominato come si elegge il Presidente della Repubblica, ad ampia maggioranza del Parlamento, in modo tale che quel governatore non debba più ringraziare il governo che lo ha nominato, ma sa che è frutto di tutto l'arco istituzionale, maggioranza e opposizione. E così evitiamo i ricatti politici in capo a chi deve controllare. Che ti sembra di questa proposta, Barbara? Quindi il governatore di Banca Italia propone il Movimento 5 Stelle che sia eletto non dal governo, nominato non dal governo, ma dal Parlamento, da tutto il Parlamento, in modo che non sia ricattabile perché sa che è sostenuto da maggioranza e opposizione. Che ne pensi? Io penso che la suddivisione dei ruoli sia sempre importante. E ci sono dei ruoli che... Come quello del capo della Banca d'Italia, che il più possibile dovrebbero essere lontani dalla politica. In realtà noi abbiamo visto che nella vicenda del rinnovo di Ignazio Visco alla guida di Banca d'Italia è avvenuto esattamente il contrario, cioè la maggioranza politica... L'ha difeso? No, il contrario, perché il Partito Democratico... La maggioranza dei parlamentari, del PD che l'ha attaccato e quella mozione. Il PD l'ha attaccato e praticamente due terzi del Parlamento, appunto i due terzi che dice Di Maio, chiedevano la testa di Visco in sostanza, perché poi la posizione del PD era appoggiata anche dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. Quindi... Anche se molti avevano criticato però la mozione del PD, no? Dentro il Partito Democratico, cioè quello che voglio dire è che in quel caso la politica, no, il Parlamento si era espresso per due terzi contro la conferma di Visco, sì. E invece il governo e il capo dello Stato, perché non va dimenticato in questo il ruolo del Quirinale su Banca d'Italia, lo hanno difeso, quindi hanno difeso, come dire, istituzione rispetto a un pressing della politica. Poi il giudizio è giusto, non è giusto, non lo so, non so quanto Visco poi entrasse concretamente, personalmente, rispetto a tutte queste vicende di cui stiamo parlando e di cui stiamo vedendo in questi giorni, in queste settimane, il resoconto della commissione d'inchiesta. Però il tema se un rappresentante istituzionale debba essere proprio eletto, no, da una maggioranza politica, a me lascia piuttosto perplessa. Sì, perché poi si entra in giochi che forse dovrebbero essere lasciati fuori da queste partite. Per chiudere, parliamo della direzione di Alternativa Popolare, su cui si scherzava un po' prima, che c'è stata e ha deciso una separazione consensuale, perché sappiamo c'era, diciamo, una opportunità tripolare: da una parte o andare verso il centrodestra, quindi Forza Italia, Salvini, eccetera, eccetera, ma soprattutto Forza Italia, oppure al PD, oppure correre da soli. Beatrice Lorenzin, che è una delle fondatrici, ha detto oggi: l'abbiamo scartata quella del correre da soli e ci pareva il minimo, no? Essendo, abbiamo detto più volte, che anche se ha aiutato a mantenere stabile il governo insieme al PD, Alternativa Popolare, insomma, diciamo, a pochi rappresentanti e un piccolo partito, e quindi si deciderà, insomma, una parte andrà verso il centrodestra, una parte verso il Partito Democratico. Tra queste anche la ministra della Salute Lorenzin. Dicono che sui simboli sono contenti perché quelli di Alternativa Popolare resteranno quelli che andranno al PD, mentre quelli nel nuovo centrodestra andranno a chi va verso, appunto, il centrodestra. Non ti sembra che però tutto questo crei un po' di confusione negli elettori, Barbara? Ma allora, la confusione in questo momento, dico una banalità, regna sovrana. Ah, ecco. Ma è evidente fin dall'inizio, cioè non bisogna mai dimenticare, purtroppo mi sembra che noi italiani abbiamo la memoria corta, cioè questo governo, anche l'attuale, ma questa legislatura meglio, nasce su un'intesa, sulle larghe intese tra allora Berlusconi e il Partito Democratico e il governo Letta, che fu il primo governo della 17ª legislatura, come ricorderete. Dopodiché c'è stata la scissione che è avvenuta dentro Forza Italia, ma dovuta soprattutto in quel caso non a questioni di governo, bensì all'estromissione di Silvio Berlusconi dal Parlamento. Fu su questo che si determinò la frattura, non su questioni di governo, su scelte programmatiche del governo. Quindi una parte di quella destra, che era sempre stata a destra, ha continuato a sostenere il governo in nome della responsabilità. E poi via via ha perso dei pezzi che sono ritornati sul fronte del centrodestra e adesso si è consumato questa rottura. Detto questo, la nuova legge elettorale, il Rosatellum, è evidente che favorisce le coalizioni. Come abbiamo detto più volte, come hai spiegato più volte. Il no? centrodestra in questo momento, come sappiamo, è forte, ma per accaparrarsi la maggioranza assoluta, come scrive spesso il nostro Roberto Dalimonte sul Sole, occorre almeno il 40% sul fronte proporzionale e il 70% dei collegi, che significa nei collegi uninominali avere un voto più dei tuoi avversari. Per avere questo doppio risultato, più alleati hai, più voti riesci ad attrarre, più è facile che tu raggiunga quel risultato. Direbbe Macron. E quindi è soprattutto sui collegi uninominali che si giocherà questa partita, tant'è che proprio sui collegi uninominali noi vedremo quando si presenteranno le liste, quando, cioè, sapremo chi corre davvero, vedremo che molti dei cosiddetti piccoli, tipo appunto questi sezionisti che si alleeranno, saranno nei collegi uninominali, perché nei collegi uninominali potranno avere il vantaggio di essere eletti grazie ai voti dei grandi partiti, cioè che nel caso del centrodestra, Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia, ma invece rischierebbero moltissimo al proporzionale, perché vige sempre uno sbarramento del 3% che per se non lo superi fuori. Sei fuori, però in compenso i tuoi voti se li prendono i tuoi alleati. Chiarissimo. Così funziona. E quindi, diciamo, per garantirgli seggi in Parlamento, probabilmente molti dei nomi che oggi facciamo, da Lupi a magari Formigoni, non so, ma anche altri ex come Fitto, come Cesa, potremmo rivederli nei collegi uninominali. A volte ritornano. Benissimo, grazie Barbara Fiammelli. C'è qualcuno che scrive: ma Alfano è andato col PD solo perché l'ha mandato Berlusconi, visto che non poteva certo mandare il PDL, finito l'inciuccio adesso, finiamo di leggere questo WhatsApp, finito l'inciuccio adesso ritornano all'ovile. Vabbè, insomma, i vari pareri di ascoltatrici e ascoltatori. Grazie Barbara Fiammelli. Grazie a voi, buonasera. A presto, adesso ci prendiamo una pausa, voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per SMS e WhatsApp, che è appunto 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberta Giordano. Proseguiamo quindi con le tante notizie. Tra pochissimo parleremo di maltempo con il capo della Protezione Civile della regione Emilia-Romagna. Sapete il maltempo con i danni che sta facendo, la preoccupazione, l'allerta che sta creando. Abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato anche dell'inchiesta sullo spionaggio politico, da cui insomma emergono che 6.000 persone sono state spiate, circa 3 milioni e mezzo di mail, però appunto si diceva ancora bisogna capire con quale obiettivo questa ampia operazione di spionaggio. Adesso invece vi dicevo parliamo di maltempo. Prima vi ricordo molto velocemente le notizie più importanti, che sono appunto l'esplosione del gasdotto in Austria, con le forniture che sembravano fossero fermate verso l'Europa e verso l'Italia in particolare, però Calenda, ministro dello sviluppo, ha rassicurato che nella notte verrà riaperta la rotta. Il vertice sul clima di Parigi col presidente francese Macron, che dice rischiamo di perdere la battaglia. E poi il maltempo, di cui parleremo tra pochissimo, la svolta di Facebook che cede alle pressioni internazionali e rivoluziona la contabilità. Quindi appunto soffermiamoci sui forti disagi che sta creando il maltempo, maltempo che ha investito il nord Italia in particolare, continua a provocare disagi dopo la neve, il gelo. Adesso a preoccupare sono i fiumi emiliani in particolare, con Lenza che è esondato, il Po che continua a crescere di livello. Ma ne parliamo con Maurizio Mainetti, che è responsabile della Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. Mainetti, grazie della disponibilità, visto che avete molto da fare in queste ore. Buonasera. Non c'è, troppo da fare, l'abbiamo perso. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Intanto vi racconto che in Liguria ancora 13.000 persone sono senza elettricità, al lavoro 350 tecnici, ma molte zone sono irraggiungibili, quindi anche qui naturalmente lavora lacrimente la Protezione Civile. Poi la situazione più difficile, come vi dicevo, è in Emilia-Romagna. Vediamo se abbiamo raggiunto Mainetti. Buonasera, sì, Mainetti. Eccomi. Dicevo grazie per la disponibilità, che so che siete molto presi insomma in queste buonasera. Ore complicate. Allora, è stata dichiarata allerta rossa e so che il presidente della regione Emilia-Romagna, Bonaccini, ha parlato con Gentiloni, vorrebbe chiedere lo stato di emergenza. La situazione adesso qual è? Perché ci sono anche molti sfollati, no? Sì, la situazione è nel punto più critico, che riguarda il fiume Enza, che è esondato nelle prime ore di stamattina con il sormonto dell'argine. C'è con il coordinamento del Dipartimento Nazionale, della Prefettura, del Commissario del Comune, c'è un lavoro molto impegnativo che viene fatto dai Vigili del Fuoco con mezzi anfibi anche in questi minuti, con diversi mezzi aerei dei Vigili del Fuoco, dell'Esercito, della Marina, del 118 della Regione. Attualmente sono state recuperate circa 400 persone dalla zona allagata e vengono indirizzati, chi naturalmente vuole, ad alcuni centri di accoglienza che sono già stati raccolti. Ci sono ancora diverse decine di persone che devono essere recuperate all'interno dell'area allagata, e il lavoro dei Vigili del Fuoco continuerà, è molto impegnativo, in particolare nelle ore notturne, però continuerà fino a che ci saranno delle persone da portare fuori. Quindi nessuno in pericolo di vita, si spera? In questo momento no, posso cogliere l'occasione o comunque la vostra disponibilità e la vostra chiamata. Sì, per segnalare che siccome nelle prime ore della mattina molte persone sono uscite da quell'area in maniera autonoma, se ancora non fossero stati contattati dal comune di Brescello, preghiamo di farlo, perché il lavoro che stiamo facendo in questi minuti assieme con i Vigili del Fuoco non è soltanto portare fuori le persone e prenderle in assistenza, ma è anche ovviamente fare una ricognizione puntuale rispetto ai censimenti anagrafici. Quindi cosa devono fare, Mainetti? Devono chiamare i pompieri, se sono ancora lì nella zona? Il comune e segnalare, perché il comune è aperto, ci sono numeri che sono esposti anche dal comune. E chiamare il comune per segnalare che loro sono al sicuro e quindi non devono essere più cercati dai Vigili del Fuoco per essere portati in salvo. Questo è importante e ci auguriamo che abbiano sentito tutti, o almeno buona parte degli interessati, magari poi fanno anche tra loro il passaparola. Mainetti, invece mi sembra che adesso la situazione sia più critica nel modenese, vicino Modena? Sì, la situazione è critica anche nel modenese, anche lì da questa notte, perché ci sono alti livelli idrometrici sul fiume Secchia. C'è un lavoro continuo di innalzamento in vari punti del sommità finale, di tamponamento di piccoli trafilamenti o sifonamenti che si sono verificati, lo sgombero di alcune decine di persone che abitavano, lo sgombero cautelativo che abitavano nelle zone golenali del fiume, quindi non ci sono state ancora delle esondazioni nel modenese, ma c'è un lavoro di grande, diciamo, attenzione, monitoraggio, tutti i comuni sono in allarme e la viabilità di accesso agli argini è interdetta, molti ponti sono chiusi, la situazione è di allarme, ma in questo momento, e ci auguriamo anche nelle prossime ore, l'acqua possa essere contenuta nell'argine. In ogni caso il sistema è pronto, è operativo. Meno male. E stiamo seguendo, però saranno 24 ore ancora molto difficili per il fiume Secchia. E quindi le auguriamo buon lavoro, Maurizio Mainetti, ricordo responsabile della protezione civile della regione Emilia Romagna, avrà tanto da fare. Grazie mille, grazie. Grazie, buonasera. Viabilità, e poi troveremo anche il modo di parlare delle prossime ore del meteo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora insieme, proseguiamo, abbiamo appena parlato di maltempo, in particolare nella regione Emilia-Romagna, poi l'esplosione di un impianto di gas in Austria, è una delle notizie dominanti di oggi, ne parleremo tra pochissimo, il vertice sul clima a Parigi, in cui il presidente francese Macron ha avvertito: rischiamo di perdere la battaglia, non si può sbagliare. A proposito appunto dell'esplosione di questo impianto di gas in Austria, che è uno dei principali snodi di rifornimento verso l'Europa, verso l'Italia, no, prima di tutto va detto che c'è stato un morto, diversi feriti, è stato interrotto il flusso di gas dalla Russia verso il nostro paese. Per questo il governo ha dichiarato in un primo tempo lo stato di emergenza, poi l'avete sentito, il ministro Calenda ha detto che in realtà entro la notte dovrà essere ripristinata questa rotta. Ne parliamo con Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore. Caro Jacopo. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Allora, tu sai spiegarci che cosa può essere successo, anche perché adesso è ricominciata un po' la battaglia tra il ministro dello sviluppo Calenda e il presidente della regione Emilia Romagna Emiliano, che dice, allora Calenda ha detto, vedete, se fosse già attiva la TAP, questo gasdotto che dovrebbe passare dall'Azerbaigian e attraverso la Puglia rifornire l'Italia, non ci sarebbe stata questa emergenza, no? Emiliano però dice no, questo significa che invece c'è una mancanza di sicurezza, e quindi se facciamo anche da noi questo tipo di gasdotto rischiamo in Puglia che succeda qualcosa del genere. Cosa può essere successo, e sono sicuri poi questi gasdotti? L'oggetto gas di per sé è una cosa pericolosa, come la benzina, come il petrolio, come il gasolio, come la corrente elettrica e tante altre cose che usiamo tutti i giorni. Nel caso dell'impianto di Baumgarten nell'Austria del nord-est, cioè verso il confine con la Slovacchia, non ci sono state date informazioni dalla società che gestisce l'impianto. È un impianto di compressione, cioè il gas viene dalla Russia e in parte anche dalla Norvegia, affluisce attraverso vari gasdotti fino a quello snodo, e lì c'è una grossa macchina, un enorme impianto che comprime il gas e lo respinge più compresso verso l'Europa, verso il resto verso dell'Europa. L'Italia, un pochino verso l'Austria e verso la Germania del Sud, la Baviera sostanzialmente. Il tipo di incidente, non ci è stato detto che tipo di incidente è stato, esplosione, incendio. Comunque diceva Calenda che stanotte dovrebbe ritornare tutto a posto, che dovrebbe essere ripristinata. Non ci hanno fatto sapere nemmeno il tipo di intervento per riparare, per ripristinare. Cioè, non sappiamo se il tubo è stato riaperto oppure sono stati fatti dei bypass, per esempio, o delle altre forniture, state attivate le forniture alternative per continuare a gestire fornire. Anche perché il rischio era che si alzassero i prezzi, no? Subito era stato detto. Sì, sono alzati i prezzi sulla borsa italiana del gas, che si chiama punto virtuale di scambio, il prezzo del megawattora di gas, che viene calcolato in megawattora, è salito da un prezzo internazionale che sta attorno ai 30 euro, è salito prima ai 60 e ha avuto punte fino agli 80 euro, cioè più che quasi il doppio, insomma più del doppio. Solo per alcuni momenti, ma si è parlato anche di speculazione. Vedevo Emiliano che dice: i fatti accaduti in Austria hanno dimostrato che le preoccupazioni della regione Puglia hanno un fondamento evidente che ci obbligherà nei prossimi giorni a sottoporre alla Procura della Repubblica competente un esposto che mira a salvaguardare l'incolumità pubblica dalla incosciente decisione del governo di ritenere non assoggettabile alle direttive Seveso l'impianto TAP. Il contenzioso riguarda in particolare l'impianto di compressione più piccolo ma tipologicamente simile che viene realizzato alle porte di Melendugno in Masseria Capitano. È un impianto dove appunto viene raccolto il gas che arriva dall'Azerbaigian e compresso e rispinto verso l'alto. Mi sembra che la battaglia sia ancora lunga. Per il momento ci fermiamo qui. Grazie a Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore. Ciao, grazie Jacopo. Roberto, un saluto a tutti. Grazie. Ora invece, visto che abbiamo parlato di maltempo, il nostro Paolo Corazzoni di Trebimeteo ci dirà, caro Paolo, nelle prossime ore che cosa ci si deve aspettare. Sì, buonasera Roberto, ma per fortuna abbiamo buone notizie, in qualche modo il peggio è passato, quantomeno in termini di precipitazioni. Cioè, domani al nord sarà una bella giornata, a parte il rischio nebbia che sarà particolarmente pesante in alcune zone della Valpadana, però appunto non abbiamo precipitazioni, che è la cosa più importante. Le piogge si stanno spostando verso il centro-sud, ma perderanno di intensità, quindi non ci attendiamo situazioni particolarmente pericolose, però è anche vero che i tempi di risposta dei corsi d'acqua sono più lunghi, quindi ancora qualche disagio, temo, in Emilia ci sarà, però appunto dal cielo non verrà giù più nulla e questa è già un'ottima notizia. Avremo un'altra perturbazione tra la fine di giovedì e venerdì, ma molto più debole, quindi a mio parere davvero il peggio è passato. Sempre ottimista dottor Paolo Corazzoni, poi ci sarà modo di risentirci con Paolo Corazzoni di Trebimeteo. Buon tempo a te comunque sia, noi ci risentiamo alle 23:00.